Per Alba, l'unica persona stabile in quella nave alla deriva in cui si era trasformata la grande casa dell'angolo dopo la morte di Clara, era sua madre. Blanca lottava contro lo sfacelo e la decadenza con la ferocia di una leonessa, ma era evidente che avrebbe perso la lotta contro l'avanzata del deteriore. Solo lei cercava di dare al casermone l'aspetto di un focolare. Il senatore Trueba continuava ad abitare lì, ma aveva smesso di invitare i suoi amici e le relazioni politiche. Aveva chiuso il salotto, occupava solo la biblioteca e la sua camera. Era cieco e sordo ai bisogni della casa. Molto preso dalla politica e dagli affari, viaggiava di continuo, sovvenzionava nuove campagne elettorali, comprava terre e trattori, allevava cavalli da corsa, speculava sul prezzo dell'oro, dello zucchero e della carta. E non si rendeva conto che le pareti della sua casa avevano bisogno di una mano di pittura, che i mobili erano sgangherati e la cucina trasformata in un letamaio. E non vedeva nemmeno i maglioni di lana infeltrita di sua nipote nei vestiti antiquati di sua figlia o le sue mani distrutte dal lavoro domestico e dall'argilla. Non si comportava così per avarizia. La sua famiglia aveva semplicemente smesso di interessargli. Talvolta si scrollava la distrazione di dosso e arrivava con qualche regalo sproporzionato e meraviglioso per sua nipote, che si limitava ad aumentare il contrasto tra la ricchezza invisibile dei conti in banca e l'austerità della casa. Dava a Blanca somme variabili, ma mai sufficienti, destinate a tenere in piedi quel casermone sconquassato e buio, quasi vuoto e attraversato da correnti d'aria in cui era degenerata la dimora di un tempo. A Blanca non bastava mai il denaro per le spese. Viveva chiedendo prestiti a Jaime e, per quanto limitasse il bilancio da una parte e lo rimpannucciasse dall'altra, a fine mese aveva sempre un fascio di conti insoluti che si andava accumulando finché non prendeva la decisione di andare nel quartiere dei gioiellieri ebrei a vendere qualcuno dei preziosi che un quarto di secolo prima erano stati comprati proprio lì e che Clara aveva riposto in un calzerotto di lana. In casa Blanca girava con grembiule e pantofole di corda, confondendosi con la scarsa servitù che rimaneva, e per uscire usava lo stesso tailleur nero stirato e ristirato con la sua blusa di seta bianca. Dopo che suo nonno era rimasto vedovo e aveva smesso di occuparsi di lei, Alba si vestiva con quello che ereditava da qualche cugina lontana che era più grande o più piccola di lei. Sicché i cappotti le stavano come cappotti militari e i vestiti corti e stretti. Jaime avrebbe voluto far qualcosa per lei, ma la sua coscienza gli suggeriva che era meglio spendere le sue entrate dando da mangiare agli affamati, piuttosto che lusso alla sorella e alla nipote. Dopo la morte di sua nonna, Alba cominciò ad avere degli incubi che la risvegliavano urlante e febbricitante. Sognava che morivano tutti i membri della sua famiglia e che lei rimaneva a vagare da sola nella grande casa, senza altra compagnia che i tenui fantasmi scoloriti che giravano lungo i corridoi. Jaime suggerì di trasferirla nella stanza di Blanca finché stesse più tranquilla. Da quando cominciò a dividere la camera da letto con sua madre, aspettava con segreta impazienza il momento di andare a letto. Rannicchiata fra le lenzuola, la seguiva nei suoi movimenti di fine giornata finché non si filava a letto. Blanca si puliva la faccia con crema dell'Arem, un grasso roseo dal profumo di rosa che aveva fama di fare miracoli per la pelle femminile. E si spazzolava 100 volte i suoi lunghi capelli castani che cominciavano ad avere qualche filo bianco invisibile a tutti, ma non a lei. Era insensibile ai raffreddori, perciò d'inverno ed estate dormiva con camiciole di lana che lei stessa confezionava a maglia nei momenti liberi. Quando pioveva si copriva le mani con guanti per mitigare il freddo polare che le si era infilato nelle ossa per via dell'umidità dell'argilla e che tutte le iniezioni di Jaime e l'agopuntura di Nicolas non erano servite a guarire. Alba l'osservava andare e venire per la stanza col suo camicione da novizia che le fluttuava intorno al corpo, i capelli sciolti dalla crocchia, avvolta nella dolce fragranza dei suoi indumenti puliti e della crema dell'Arem, smarrita in un monologo incoerente in cui si mescolavano le lagnanze per il prezzo della verdura, il resoconto dei suoi molteplici malesseri, la stanchezza di reggere sulle spalle il peso della casa e le sue fantasie poetiche su Pedro Terzo Garcia che immaginava tra le nuvole della sera o ricordava tra i dorati campi di grano delle Tre Marie. Terminato il suo rituale, Blanca si infilava nel letto e spegneva la luce. Attraverso lo stretto spazio che le separava, prendeva la mano di sua figlia e le raccontava le storie dei libri magici, dei bauli incantati del prozio Marcos, ma che la sua cattiva memoria trasformava in nuovi racconti. Così Alba venne a conoscenza di un principe che aveva dormito 100 anni, di damigelle che lottavano corpo a corpo con i draghi, di un lupo perduto nel bosco al quale una bambina aprì la pancia senza motivo. Quando Alba voleva sentire di nuovo quelle truculenze, Blanca non poteva ripeterle perché le aveva dimenticate, sicché la piccola aveva preso l'abitudine di scriverle. Annotava poi anche le cose che le sembravano importanti, così come aveva fatto sua nonna Clara. I lavori del mausoleo cominciarono poco dopo la morte di Clara, ma durarono quasi 2 anni perché vi andavo aggiungendo nuovi e costosi particolari. Lapidi dai caratteri gotici in oro, una cupola di vetro perché vi entrasse il sole e un ingegnoso meccanismo copiato dalle fontane romane che permetteva di irrigare in modo costante e misurato un minuscolo giardino interno, dove feci piantare rose e camelie, i fiori preferiti dalle sorelle che mi avevano preso il cuore. Le statue furono un problema. Rifiutai vari disegni perché non volevo degli angeli cretini, bensì i ritratti di Rosa e Clara, con i loro volti, le loro mani, la loro grandezza reale. Uno scultore uruguaiano riuscì a soddisfarmi e le statue divennero infine come io le volevo. Quando fu pronto, mi imbattei in un ostacolo imprevisto. Non riuscii a trasferire Rosa nel nuovo mausoleo perché la famiglia del Valle si opponeva. Cercai di convincerli con ogni sorta di argomenti, facendo pesare anche il potere politico, ma fu tutto inutile. I miei cognati si mantennero inflessibili. Credo che fossero venuti a sapere della testa di Nive ed erano offesi con me che l'avevo tenuta in cantina per tutto quel tempo. E di fronte alla loro cocciutaggine, chiamai Jaime e gli dissi di prepararsi ad accompagnarmi al cimitero per rubare il cadavere di Rosa. Non mostrò alcuna sorpresa. Se non è con le buone, sarà con le cattive, spiegai a mio figlio. Come succede in questi casi, andammo di notte e corrompemmo il guardiano, così come avevo fatto molto tempo prima, per rimanere con Rosa la prima notte che lei trascorse lì. Entrammo con i nostri attrezzi per il viale dei cipressi, cercammo la tomba della famiglia del Valle e ci impegnammo nella lugubre fatica di aprirla. Smuovemmo con attenzione la lapide che proteggeva il riposo di Rosa e togliemmo dalla nicchia la bianca bara, che era molto più pesante di quello che avevamo pensato, sicché fummo costretti a chiedere al guardiano di aiutarci. Lavorammo scomodi nello stretto spazio, intralciandoci reciprocamente con gli attrezzi male illuminati da una lampada d'acetilene, poi ricollocammo la lapide nella nicchia affinché nessuno sospettasse che era vuota. Alla fine sudavamo. Jaime aveva avuto la precauzione di portare una borraccia con dell'acquavite e ne bevemmo un sorso per farci coraggio. Anche se nessuno di noi due era superstizioso, quella necropoli di croci, cupole e lapidi ci innervosiva. Io mi sedetti sulla soglia della tomba per riprendere fiato e pensai che ormai non ero più giovane. Se muovere una cassa mi faceva perdere il ritmo del cuore e vedere puntini che brillavano nel buio. Chiusi gli occhi e mi ricordai Rosa, del suo viso perfetto e della sua pelle di latte, dei suoi capelli da sirena dell'oceano, dei suoi occhi di miele che suscitavano tumulti, delle sue mani intrecciate al rosario di madreperla, della sua corona da sposa. Sospirai evocando quella vergine bellissima che mi era sfuggita di mano e che era rimasta lì in tutti quegli anni ad attendere che io andassi a prenderla e a portarla nel posto dove doveva stare. Figlio, apriamola, voglio vedere Rosa, dissi a Jaime. Non tentò di dissuadermi perché conosceva il mio tono quando la decisione era irrevocabile. Sistemammo la luce della lampada, lui tolse con pazienza le viti di bronzo che il tempo aveva annerito e riuscimmo a sollevare il coperchio che pesava come fosse stato di piombo. Alla bianca luce dell'acetilene vidi Rosa, la bella, con le sue zagare da sposa, i suoi capelli verdi, la sua imperturbabile bellezza, così come avrei potuto vederla anni prima, distesa sul suo feretro bianco sul tavolo della sala da pranzo dei miei suoceri. Rimasi a guardarla affascinato, senza stupirmi che il tempo non l'avesse toccata, perché era la stessa dei miei sogni. Mi chinai e deposi attraverso il vetro che copriva il suo volto un bacio sulle labbra pallide dell'infinitamente amata. In quel momento un soffio di vento avanzò, strisciando tra i cipressi, entrò a tradimento in qualche fessura della bara, che fino ad allora era rimasta ermeticamente chiusa, e in un attimo la fidanzata immutabile si disfece, come d'incanto, si disintegrò in una polverina tenue e grigia. Quando alzai la testa e aprii gli occhi, col bacio freddo ancora sulle labbra, Rosa la bella non c'era più. Al suo posto c'era un teschio con le orbite vuote, qualche striscia di pelle color avorio attaccata agli zigomi e qualche ciocca di crine ammuffito sul cranio. Jaime e il guardiano chiusero il coperchio precipitosamente, misero Rosa su un carretto e la portarono nel posto che le era riservato vicino a Clara nel mausoleo color salmone. Rimasi seduto su una tomba nel viale dei cipressi a guardare la luna. Ferula aveva ragione, pensai. Sono rimasto solo e mi si stanno rimpicciolendo il corpo e l'anima. Mi manca solo di morire come un cane. Il senatore Trueba lottava contro i suoi nemici politici che ogni giorno avanzavano sempre più verso la conquista del potere, mentre altri dirigenti del partito conservatore ingrassavano, invecchiavano e sprecavano il tempo fra interminabili discussioni bizantine. Lui si impegnava a lavorare, a studiare e a percorrere il paese da nord a sud in una campagna personale che non finiva mai, senza preoccuparsi affatto dei suoi anni né del sordo rumore delle sue ossa. Lo rieleggevano senatore a ogni elezione parlamentare, ma non era interessato al potere, alla ricchezza o al prestigio. La sua ossessione era distruggere quanto chiamava il cancro marxista che stava infiltrandosi a poco nel popolo. Basta sollevare una pietra e spunta un comunista, diceva. Nessuno più credeva in lui, neppure gli stessi comunisti. Lo schernivano un po' per i suoi scoppi di cattivo umore, il suo aspetto da corvo a lutto, il suo bastone anacronistico e le sue previsioni apocalittiche. Quando sbandierava sotto il loro naso le statistiche e i risultati reali delle ultime votazioni, i suoi correligionari temevano che fossero ciance da vecchio. Il giorno in cui non potremo più mettere le mani sulle urne prima che contino i voti, finiremo a Remengo, sosteneva Trueba. Da nessuna parte i marxisti hanno vinto alle votazioni popolari. Ci vuole almeno una rivoluzione e in questo paese simili cose non succedono, gli spiegavano. Finché un giorno non succederanno, aggiungeva Trueba frenetico. Calmati, per Dio, non permetteremo mai che succeda, lo consolavano. Il marxismo non ha la minima possibilità in America Latina. Non vedi che non contempla il lato magico delle cose. È una dottrina atea, pratica e funzionale. Qui non può avere successo. Neppure lo stesso colonnello Hurtado, che vedeva nemici della patria ovunque, considerava i comunisti un pericolo. Gli aveva fatto vedere più di una volta che il Partito Comunista era composto da quattro pelegatti che non significavano statisticamente niente e che si reggevano grazie all'appoggio di Mosca con un'incoscienza degna di miglior causa. Mosca si trova in capo al mondo, Esteban. Non hanno idea di quello che capita in questo paese. Diceva il colonnello Hurtado, non tengono conto delle condizioni del nostro paese. La prova è che sono più sperduti di Cappuccetto Rosso. Poco tempo fa hanno pubblicato un manifesto chiamando i contadini, i marinai e gli indigeni a far parte del primo Soviet nazionale, cosa che sotto ogni punto di vista è una pagliacciata. Come fanno a sapere i contadini cos'è un Soviet? E i marinai stanno sempre in alto mare e sono più interessati ai bordelli degli altri porti che alla politica. E gli indigeni, non ne rimangono 200 in tutto. Non credo che siano sopravvissuti al massacro del secolo scorso, ma se vogliono formare un Soviet nelle loro riserve, lo facciano pure, scherzava il colonnello. Sì, ma oltre ai comunisti ci sono i socialisti, i radicali e altri gruppuscoli, sono tutti più o meno la stessa cosa, rispondeva Trueba. Per il senatore Trueba ogni partito politico tranne il suo era potenzialmente marxista e non poteva distinguere chiaramente l'ideologia degli uni e degli altri. Non esitava a esporre la sua posizione in pubblico. Ogni volta che ne aveva l'occasione, sicché per tutti, meno che per i suoi partigiani, il senatore Trueba divenne una specie di pazzo reazionario e oligarca molto pittoresco. Il partito conservatore doveva frenarlo affinché non dicesse spropositi e li mettesse tutti alla berlina. Era il paladino furibondo, disposto a dar battaglia nei fori, tra le rotative della stampa, nelle università, dove nessuno osava più mostrare la faccia. Lì c'era l'imperturbabile nel suo vestito nero, con la sua chioma leonina e il suo bastone d'argento. Era il bersaglio dei caricaturisti che a forza di burlarsi di lui l'avevano reso popolare e in tutte le elezioni faceva incetta dei voti dei conservatori. Era fanatico, violento, antiquato, ma rappresentava meglio di chiunque altro i valori della famiglia, della tradizione, della proprietà e dell'ordine. Tutti lo conoscevano per strada. Inventavano barzellette su di lui e correvano di bocca in bocca gli aneddoti che gli attribuivano. Dicevano che durante il suo attacco cardiaco, quando suo figlio si era spogliato davanti alle porte del Congresso, il Presidente della Repubblica l'aveva chiamato nel suo ufficio per offrirgli l'ambasciata in Svizzera, dove avrebbe potuto avere un incarico adatto ai suoi anni che gli avrebbe permesso di rimettersi in sesto. Dicevano che il senatore Tureba aveva risposto con un pugno sulla scrivania della prima autorità, rovesciando la bandiera nazionale e il busto del padre della patria. Di qui non me ne vado neanche morto, eccellenza, aveva ruggito, perché se non ci sto attento io, i marxisti le toglieranno la seggiola su cui sta seduto. Ebbe l'intuito di essere il primo a chiamare la sinistra nemica della democrazia, senza sospettare che anni dopo quello sarebbe stato il lemma della dittatura. Occupava quasi tutto il suo tempo e buona parte della sua fortuna nella lotta politica. Notò che sebbene stesse organizzando sempre nuovi affari, questa sembrava andar calando dopo la morte di Clara. Ma non si allarmò, perché aveva pensato che nell'ordine naturale delle cose stava il fatto irrefutabile che lei era stata un soffio di buona fortuna, ma che poteva goderne ancora dopo la sua morte. Inoltre aveva calcolato che con quanto possedeva poteva vivere come un uomo ricco per tutto il tempo che gli restava in questo mondo. Si sentiva vecchio, riteneva che nessuno dei suoi tre figli meritasse di avere la sua eredità e che sua nipote sarebbe stata al sicuro con le Tre Marie, sebbene i campi non fossero più così prosperi come prima, grazie alle nuove strade e alle automobili. Quando prima era un safari in treno, il percorso si era ridotto al sole 6 ore di viaggio dalla capitale alle Tre Marie. Ma lui era sempre occupato e non trovava mai un momento per recarvisi. Di tanto in tanto chiamava l'amministratore per farsi esporre i conti, ma queste visite lo lasciavano con una risacca di malumore per diversi giorni. Il suo amministratore era un uomo sconfitto dal suo stesso pessimismo. Le sue notizie erano una serie di infortuni casuali, le fragole erano gelate, le galline avevano un'epidemia di pipita, aveva grandinato sull'uva. E così la campagna, che era stata fonte della sua ricchezza, si era trasformata in un peso. Il senatore Trueba doveva di continuo sottrarre denaro ad altri affari per puntellare quella terra insaziabile che sembrava avere voglia di tornare ai tempi dell'abbandono, prima che lui l'avesse riscattata dalla miseria. «Devo andare a fare ordine, laggiù manca l'occhio del padrone», mormorava. «Le cose sono molto cambiate in campagna, patron», l'aveva spesso avvertito l'amministratore. «I contadini hanno molte pretese, ogni giorno esigono nuove cose, si direbbe che vogliono vivere come i padroni, è meglio vendere la proprietà». Ma Trueba non voleva sentir parlare di vendere. «La terra è l'unica cosa che rimane quando tutto finisce», ripeteva allo stesso modo di quando aveva 25 anni e sua madre e sua sorella premevano su di lui per lo stesso motivo. Ma col peso degli anni e del lavoro politico, le Tre Marie, come molte altre cose che prima gli sembravano fondamentali, avevano smesso di interessargli, avevano solo un valore simbolico per lui. L'amministratore aveva ragione, le cose erano molto cambiate in quegli anni. Così andava predicando la voce di velluto di Pedro Terzo Garcia, che grazie al miracolo della radio arrivava nei più reconditi angoli del paese. A 30 più anni continuava ad avere l'aspetto di un rude contadino per un fatto di stile, visto che l'esperienza della vita e il successo gli avevano smussato le asprezze e raffinato le idee. Portava una barba da montanaro e una chioma da profeta che lui stesso si recideva quando se ne ricordava con un rasoio che era appartenuto a suo padre, anticipando di vari anni la moda che fece poi furore tra i cantanti di protesta. Si vestiva con pantaloni di tela grezza, sandali di corda artigianali ed inverno si gettava addosso una mantella di lana ruvida. Era la sua tenuta da battaglia. Così si presentava sulle scene e così appariva ritratto sulle copertine dei dischi. Deluso dalle organizzazioni politiche, finì per distillare tre o quattro idee fondamentali su cui fondò la sua filosofia. Era un anarchico. Dopo le galline e le volpi si era messo a cantare la vita, l'amicizia, l'amore e anche la rivoluzione. La sua musica era molto popolare e solo qualcuno, testardo come il senatore Trueba, riuscì a ignorarne l'esistenza. Il vecchio aveva proibito la radio in casa sua per evitare che sua nipote ascoltasse le commedie e i romanzi d'appendice in cui le madri perdono i figli e li ritrovano anni dopo, e per evitare anche l'eventualità che le canzoni sovversive del suo nemico giurato gli rovinassero la digestione. Aveva una radio moderna nella sua stanza, ma ascoltava solo i notiziari. Non sospettava che Pedro Terzo García fosse il miglior amico di suo figlio Jaime, né che si vedesse con Blanca ogni volta che lei usciva con la sua valigia da pagliaccio, balbettando scuse. E non sapeva neppure che durante qualche domenica soleggiata portava Alba ad arrampicarsi sulle colline, si sedeva con lei in cima a osservare la città e a mangiare pane e formaggio. E prima di lasciarsi cadere, rotolando lungo le pendici, scoppiando di risate come cuccioli felici, le parlava dei poveri, degli oppressi, dei disperati e di altre cose che Trueba avrebbe preferito che sua nipote ignorasse. Pedro III vedeva crescere Alba e faceva in modo di starle vicino, ma non era mai riuscito a considerarla realmente sua figlia, perché Blanca su questo punto era stata inflessibile. Diceva che Alba aveva dovuto sopportare molte scosse e che era un miracolo che fosse una creatura relativamente normale, sicché non era il caso di aggiungere altri motivi di confusione riguardo alla sua origine. Era meglio che crescesse seguendo la versione ufficiale e d'altra parte non voleva correre il rischio che parlasse della faccenda con suo nonno provocando una catastrofe. Comunque lo spirito libero e contestatario della bambina piaceva a Pedro III. Se non è figlia mia, merita di esserlo. Diceva orgoglioso. In tutti quegli anni Pedro III non riuscì mai ad abituarsi alla sua vita di scapolo. Nonostante il suo successo con le donne, specialmente le splendide adolescenti in cui i lamenti della sua chitarra suscitavano amore, alcune si introducevano a viva forza nella sua vita. Lui aveva bisogno della freschezza di quegli amori. Cercava di farle felici per un tempo brevissimo, ma dopo il primo momento di illusione cominciava ad allontanarle finché alla fine non le abbandonava con delicatezza. Spesso, quando ne aveva nel letto una che sospirava nel sonno al suo lato, chiudeva gli occhi e pensava a Blanca, al suo ampio corpo maturo, ai suoi seni abbondanti e tiepidi, alle rughe sottili della sua bocca, all'ombra dei suoi occhi arabi, e sentiva un grido primergli il petto. Cercò di rimanere insieme ad altre donne, percorse molte strade e molti corpi per allontanarsi da lei, ma nel momento più intimo, nel punto preciso della solitudine e del presagio della morte, era sempre Blanca l'unica. La mattina successiva cominciava il sottile processo per liberarsi della nuova innamorata e non appena si trovava libero tornava da Blanca più magro, più segnato in volto, più colpevole, con una nuova canzone composta alla chitarra e altre inestinguibili carezze per lei. Blanca invece si era abituata a vivere da sola, finì per trovare pace nelle incombenze della grande casa, nel suo laboratorio di ceramica e nei suoi presepi di animali inventati, in cui l'unica cosa che rispettava le leggi della biologia era la sacra famiglia smarrita fra una ressa di mostri. L'unico uomo della sua vita era Pedro III, perché propendeva per un solo amore. La forza di questo inalterabile sentimento la salvò dalla mediocrità e dalla tristezza del suo destino. Rimaneva fedele anche quando lui si perdeva dietro a qualche ninfa dai capelli lisci e dalle ossa lunghe, senza amarlo o di meno per questo. All'inizio credeva di morire ogni volta che si allontanava, ma si era subito resa conto che le sue assenze duravano quanto un sospiro e che invariabilmente ritornava più innamorato e più dolce. Blanca preferiva quegli incontri furtivi col suo amante negli alberghi a ore, alla quotidianità della vita in comune, alla stanchezza di un matrimonio, alla pesantezza di invecchiare insieme, dividendo la penuria del fine mese, il cattivo odore in bocca al risveglio, la noia delle domeniche e gli acciacchi dell'età. Era un'incurabile romantica. Talvolta aveva avuto la tentazione di prendere la sua valigia da pagliaccio e quanto rimaneva dei gioielli nel calzerotto e andarsene con sua figlia a vivere con lui, ma si bloccava sempre. Ogni tanto aveva paura che quel grande amore, che aveva sopportato tante prove, non avrebbe potuto sopravvivere alla più terribile di tutte, la convivenza. Alba stava crescendo molto in fretta e capiva che non le sarebbe durata molto la scusa di vegliare su sua figlia per rinviare le esigenze del suo amante, ma preferiva lasciare la decisione per più avanti. In realtà, così come temeva l'abitudine, la inorridiva lo stile di vita di Pedro III, la sua modesta casetta di legno e zinco in un quartiere operaio, fra altre 100 povere quanto la sua, con pavimento di terra battuta, senza acqua e solo una pompa che scendeva dal tetto. Per accontentarla, lui era andato via dal quartiere e si era trasferito in un appartamento del centro, ascendendo così, senza proporselo, a una classe media alla quale non aveva mai aspirato di appartenere, ma nemmeno questo era stato sufficiente per Blanca. L'appartamento le era parso sordido, buio, stretto e l'edificio promiscuo. Diceva di non poter permettere che Alba crescesse lì, giocando con altri bambini nella strada o sulle scale, frequentando una scuola pubblica. E così era trascorsa la sua gioventù ed era entrata nella maturità, ormai rassegnata che gli unici momenti di piacere fossero quando usciva di nascosto con i suoi migliori vestiti, il suo profumo e le sottovesti da sgualdrina che conquistavano Pedro III e che lei nascondeva rossa di vergogna nel più segreto del suo armadio, pensando alle spiegazioni che avrebbe dovuto dare se qualcuno le avesse scoperte. Quella donna pratica e con i piedi in terra sotto ogni aspetto della sua esistenza sublimò la sua passione dell'infanzia vivendola tragicamente. La nutrì di fantasie, la idealizzò, la difese con fierezza, la depurò delle verità prosaiche e riuscì a trasformarla in un amore da romanzo. Da parte sua, Alba imparò a non nominare Pedro III Garcia perché sapeva l'effetto che quel nome suscitava in famiglia. Intuiva che qualcosa di grave era successo tra l'uomo dalle dita tagliate che baciava sua madre sulla bocca e il nonno, ma tutti, perfino lo stesso Pedro III, rispondevano alle sue domande evasivamente. Nell'intimità della camera da letto, talvolta Blanca le raccontava aneddoti su di lui e le insegnava le sue canzoni, raccomandandole di non mettersi a canticchiarle in casa, ma non le raccontò che era suo padre. E lei stessa sembrava averlo dimenticato. Ricordava il passato come una serie di violenze, di abbandono e di tristezza e non era certa che le cose fossero andate come pensava. Si era scolorito l'episodio delle mummie, delle fotografie dell'indiano imberbe con scarpe alla Luigi XV che avevano causato la sua fuga dalla casa del marito. Aveva raccontato così tante volte che il conte era morto di febbre nel deserto da arrivare a crederci. Anni dopo, il giorno in cui sua figlia le annunciò che il cadavere di Jean de Satigny giaceva nella cella frigorifera dell'obitorio, non si rallegrò perché si sentiva vedova da molto tempo e non cercò neppure di giustificare la sua menzogna. Tirò fuori dall'armadio il suo vecchio abito a giacca nero, si sistemò le forcine nella crocchia e accompagnò Alba a seppellire il francese nel cimitero centrale, in una tomba del municipio dove andavano a finire gli indigenti, perché il senatore Trueba si era rifiutato di cedere un posto nel mausoleo color salmone. Madre e figlia camminarono da sole dietro la bara nera che erano riuscite a comprare grazie alla generosità di Jaime. Si sentivano un po' ridicole nell'afoso mezzogiorno estivo, con un mazzo di fiori vizzi in mano e nessuna lacrima per il cadavere solitario che andavano a seppellire. Vedo che mio padre non aveva nemmeno degli amici, aveva osservato Alba.